La versione di Oscar Giannino. This is the end. Cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino torna a salutarvi dopo 9 mesi, la versione di Oscar in versione pomeridiana dalle 4:30 alle 5. Sono molto felice e grato a Radio 24 non solo per la ripresa di questo ciclo di incontri con voi tutti i giorni dal lunedì al venerdì a quest'ora in podcast per chi non può ascoltarci in diretta. Conoscete il numero verde per telefonare, 800 24 00 24, il 349 238 6666 per i messaggi SMS. Ma sono molto grato di rincontrarmi con voi perché insomma sono passati 9 mesi, io sono un po' lacero contuso, però l'Italia sta peggio e con voi tutti i giorni approfondiremo le radici degli errori, del malessere economico italiano. Ricordo a tutti che dall'inizio della crisi abbiamo 27 punti di investimento in meno, 25 punti di produzione industriale in meno, 9 punti di PIL in meno, e con questa bella trovata di questi ultimi giorni di nuova crisi abbiamo i mercati che giustamente tornano a minacciarci di downgrading. A questo c'è un downgrading in arrivo, se dovesse esserci quello sovrano, su metà delle banche quotate italiane che sono a un gradino dal perdere l'investment grade, restrizione di credito ulteriore per le famiglie e per le imprese. Ma della politica parleremo nei prossimi giorni, perché in questo 30 settembre che segna il ritorno con voi è una giornata che ci introduce per forza a un punto di quelli fondamentali di cui abbiamo sempre parlato, quello del fisco, dello Stato ladro. E perché? Perché i mercati vanno giù, perché in America, se il Congresso oggi non approva un accordino sulle spese pubbliche, pensate, da domani mattina 800.000 dipendenti pubblici americani sono in disponibilità temporanea, cioè a casa non pagati. Queste sono le regole degli Stati Uniti, pensate se anche da noi ci fossero regole simili. E in Italia oggi, 30 settembre, San Gerolamo, grande padre della Chiesa, che a me sta simpatico perché nella sigla lo avete sentito, il gattino è rimasto, e San Gerolamo è quello che levava le spine dalla zampa dei leoni. Ricordate il grandissimo ciclo di Vittorio Carpaccio al San Gerolamo degli Schiavoni a Venezia. Ecco, in questo 30 settembre per noi contribuenti, non al lavoro dipendente, ma per gli autonomi, per i professionisti, per i piccoli imprenditori, è una data emblematica e tragica. Perché pensate che questo 30 settembre, oggi, scattano la bellezza in questo 30 settembre per tutte le diverse classi di contribuenti, 73 tipi di versamenti, 15 tipi di diverse dichiarazioni, 18 tipi di diverse comunicazioni, 17 possibili ravvedimenti e 7 possibili istanze, tutto in un giorno. Tutta la mole degli adempimenti per ottemperare al debito fiscale, al proprio dovere fiscale nel nostro paese. Ed è di questo che vogliamo parlare oggi, alla luce della crisi, di quello che si interrompe nella continuità di quello che faceva il governo e di quello che capita, visto che da domani mattina scatta l'aliquota IVA al 22%, visto che è in discussione l'abrogazione della seconda rata, la copertura della seconda rata per l'IMU, visto che rischiamo di non avere una legge di stabilità che per me doveva fare la scelta giusta, cioè quella di diminuire l'IRAP, il cuneo fiscale, e aumentare detrazioni per i redditi da lavoro dipendenti, la vera priorità per rilanciare la crescita al posto dell'IMU, e purtroppo sapete come invece è andata. Ecco, e per questo cominciamo la ripresa della versione di Oscar con un ospite che sono molto felice di avere con noi, perché lo abbiamo non solo nella sua qualità di parlamentare, neoparlamentare alle elezioni dello scorso febbraio, ma perché a mio modestissimo giudizio è tra i neoparlamentari e i parlamentari anche di lungo pelo quello che ne sa davvero tecnicamente di più. Infatti è stato spesso ospite ai nostri amici microfoni quando era direttore, nella vita questo ho fatto, direttore di Eutecne, cioè della rivista telematica online dei commercialisti. Il suo nome è Enrico Zanetti e è un deputato di Scelta Civica. Lo stiamo aspettando perché naturalmente nel frattempo la trasmissione inizia con un piccolo incidente perché è caduta la linea telefonica. E vi dico subito che da domani l'argomento sarà invece come sono cambiati in positivo o in negativo gli studi di settore. Ecco, è con noi Enrico Zanetti e io lo ringrazio di essere con noi. Sono io che ringrazio per l'opportunità. Allora Enrico, diciamo a chi è a casa dal tuo punto di vista che cosa può accadere con questa crisi rispetto all'aumento dell'IVA domani, rispetto alla copertura o meno della seconda rata abrogazione totale IMU sulla prima casa e rispetto alla legge di stabilità. Insomma, l'inferno fiscale diventa ancora più inferno o c'è una via di luce secondo te malgrado la crisi? No, allora è evidente che nella misura in cui non si riuscisse a trovare una quadra, quantomeno per traghettare il paese oltre la legge di stabilità e possibilmente farla anche in maniera decente, la situazione si farebbe parecchio complicata. Spesso si dice che la stabilità è un valore, ma poi non si riesce a declinare in termini concreti questo concetto. Un modo per farlo è prendere ad esempio il costo stimato degli interessi passivi che si è determinato nel documento economico finanziario approvato il 20 settembre, in una situazione quindi ancora di presenza di governo, e compararlo con il costo che era stato quantificato lo scorso aprile, quando ancora la situazione invece era molto più complessa. E già da quello si vede come i due diversi scenari politici portano in proiezione ad avere nei prossimi anni una variazione in più o in meno di circa 10 miliardi l'anno di interessi passivi. È chiaro quindi che già solo questo è un costo evidente della scelta di determinare una situazione così complessa. Dopodiché è ovvio che se la stabilità si trasforma in immobilismo, alla lunga da valore diventa disvalore, però in prima battuta già solo questa circostanza ci dice che dovremo, in un contesto eventuale di legge di stabilità fatta in situazione di governo del tutto precario, dovremo andare a cercare delle ulteriori risorse per pareggiare contabilmente l'esplosione ulteriore degli interessi passivi. È chiaro che questo non consentirà certamente di agire sull'IMU, non consentirà di agire sull'IVA e purtroppo determinerà altri eventuali aggravi che sono a dir poco spaventosi solo a pensarsi, perché questo paese sta morendo di pressione fiscale ed è veramente una grande rabbia quella che si prova in questi momenti, perché dopo che nel 2012 con sacrifici importanti i conti si erano comunque sistemati, questo era l'anno in cui si poteva cominciare a lavorare sempre sulla spesa, ma non più per incamerare al bilancio dello Stato i tagli e riportarci sotto il 3% come finalmente eravamo arrivati, bensì per restituirli ai cittadini. Invece cosa si fa? Si va sostanzialmente a far saltare il banco, accampando poi motivazioni incredibili, perché nell'istante in cui si dice che lo si fa perché non è stato garantito il rinvio dell'aumento dell'IVA dal 21 al 22%, siamo fuori da ogni logica. Io ricordo che nel 2011, nelle sue ultime battute, il governo Berlusconi aumentò l'IVA dal 20 al 21% e mise a bilancio dello Stato a partire dal 2012 ulteriori 20 miliardi di maggiori tasse, lasciando poi il cerino al governo Monti quanto alla loro individuazione. E ricordo che fu lo stesso Berlusconi a dire, mentre usciva, che gli piangeva il cuore, gli grondava sangue, penso che tutti ricordino queste parole di grande effetto, perché effettivamente aveva dovuto aumentare la pressione fiscale. Ora, che un soggetto che ha fatto un'operazione di questo genere per perdurare al governo per 2 o 3 settimane ancora alla fine di un 2011 che era già al collasso, oggi ci dica che siccome non viene garantito a prescindere dalle sue scelte il rinvio dell'IVA per 3 mesi, questo lo induce a determinare scenari potenzialmente balcanici sul nostro bilancio e quindi anche sulla possibilità in concreto di ridurre le tasse ai cittadini, io credo che sia un messaggio che va al di là del bene e del male. Ti faccio una domanda e poi la risposta me la dai però dopo il traffico, perché interrompiamo per un minuto per le informazioni stradali. La domanda è questa: il professor Ugo Arrigo ieri sul sito www.brunoleoniblog.it ha fatto un conto sul perché siamo finiti di nuovo oltre il 3% di deficit, rischiamo di finire oltre il 3%, e quello che si vede che non è l'andamento della spesa primaria al netto degli interessi, che addirittura è in linea a 724 miliardi invece che 726. Il problema è che i 49 miliardi di euro che mancano sono quelli dovuti alla via tutta tasse, per cui il PIL in 2 anni ha perso 71 miliardi, cioè il 4,1%. Secondo te la politica italiana l'ha capita che la via tutta tasse è sbagliata? Riuscirà in qualche maniera a correggerla questa cosa? La versione di Oscar. This is the end. Ma voi lo avete riconosciuto, vero, Jim Morrison? Perché quando mi dicevate per anni, guarda che porti male, sbagliavo io a dire che l'Italia nel frattempo non imparava la lezione? Dal secondo trimestre di quest'anno Spagna e Portogallo hanno il segno più congiunturale rispetto al trimestre precedente. Noi purtroppo no, e stiamo esattamente ragionando sul fatto che abbiamo perso più prodotto, più investimenti, più produzione industriale. L'export va bene, speriamo, quello è il traino che continua a funzionare, per via di questo mix tutto tasse. Allora Enrico, secondo te l'aria che respiri in aula è un'aria che questa lezione l'ha capita oppure non ancora? Secondo me abbastanza l'ha capita. È chiaro che ci sono ancora sfumature ideologiche diverse, ma io riscontro anche nel versante del centro-sinistra una maggiore disponibilità a parlare in modo aperto di riduzioni di imposte. Dopodiché è una questione anche qualitativa, è evidente che nell'istante in cui appena si hanno alcuni pochi miliardi gestibili li si butta sulla casa, con tutto il rispetto per la casa, alla fine si costruisce un modello per il quale i cittadini non avranno altro da fare che restarsene a casa e alla fine perderanno anche quella, perché se non si parte dal lavoro è evidente che la ripresa non avrà quelle possibilità che viceversa degli interventi incisivi sul fronte del lavoro gli potrebbero dare. Io da questo punto di vista vedo che c'è un cambio di mentalità. Ci sono ovviamente molti vincoli, ci sono molte difficoltà ad operare, dobbiamo saperci dare anche una mano da soli, perché è evidente che solo col taglia e cuci contabile non andremo lontano. Questo è chiaro a tutti, anche a coloro i quali hanno sempre attento la logica delle coperture, quantomeno a tutti, parlo sicuramente per noi di Scelta Civica, che dell'attenzione sul bilancio facciamo un vanto, ma che sull'attenzione al bilancio non intendiamo morire. Però è il punto di partenza, il motivo per cui non si devono fare operazioni tipo l'IMU abrogata al 100% per tutti, anche per gli ultimi con le case di maggior valore, operazione costosissima per dare un vantaggio minimo a pochi. Il motivo per cui non va fatto è anche proprio per non pregiudicare una dialettica con l'Europa che, se viene invece costruita su base di forte responsabilità come punto di partenza e non di arrivo sul bilancio, può poi consentire in tempi tutto sommato ragionevoli di magari pervenire a logiche di cofinanziamento della nostra ripresa economica, cioè noi continuiamo a lavorare sulla spesa, ma per ogni euro di spesa che andiamo a ridurre chiediamo un po' di agibilità finanziaria. Va di moda parlare di agibilità in questo periodo, io preferisco parlare della agibilità finanziaria del paese piuttosto che dell'agibilità politica di una singola persona, e in questo modo raggiungere una massa critica che consenta di fare interventi veramente incisivi e non piccoli ritocchi. Io ricordo a tutti coloro che sono in ascolto il precedente del governo Prodi meritoriamente su questo tagliò 8 miliardi tra meno IRAP, meno cuneo fiscale alle imprese, quindi e più detrazioni ai redditi dipendenti, ma quegli 8 miliardi ebbero un effetto di ripresa di crescita molto trascurabile. Bisognerebbe farlo per almeno un punto di PIL, di qua l'agibilità con le coperture di cui sta parlando Enrico Zanetti. Questa sarebbe una svolta, secondo me, di crescita potenziale a breve molto più significativa di quella che abbiamo visto in questi mesi, purtroppo per il blocco delle bandierine elettorali contrapposte. Allora io ti chiedo, nel frattempo che sentiamo le due telefonate con le due domande a cui poi mi aiuti a rispondere, c'era un'unica cosa che a me dispiace, devo dire sopra di tutto, se non si riesce a portarla in porto in questa legislatura, perché la delega di riforma fiscale che era uscita dalla Commissione Finanze non è che fosse perfetta, le deleghe sapete sono mai state approvate, era quella in cui ci promettevano le due aliquote tanti anni fa Berlusconi e così via, ma questa volta c'era il rafforzamento della irretroattività delle imposte che invece lo Stato ci riserva sempre, vedete l'annullamento delle detrazioni, l'abbattimento ad anno in corso disposto ancora quest'estate per le polizze vita, e rafforzamento del fatto che l'abuso di diritto non sia un'arma solo nelle mani dello Stato contro i contribuenti. Però mi pare di capire che quella roba per l'ennesima volta non andrà in porto. Sentiamo i due ascoltatori e poi torniamo ad Enrico Zanetti. Sentiamo innanzitutto Paolo che ci chiama da Monza. Prego Paolo. Cioè, se sono io comunque telefono da Prato. Da Prato, mi hanno detto da Monza e io chiedo scusa. Per questo e per molto altro, perché ci sono anche messaggi che devo chiedere scusa, io chiederò scusa incessantemente a tutti, quindi... Però sentiamo Paolo. Grazie, ben tornato Paolo. Oscar Giannino, che stimo e voto. Grazie. Prego. E niente, io vorrei chiedere al... onorevole del presente, se si rendono conto, io sono un imprenditore tessile, sì, che il mio concorrente, ovvero Cina India, oltre a non avere la 626, maternità, premoferie, malattie, eccetera, eccetera, gli ha anche la possibilità di esportare nel mio paese con appunto diverse condizioni di produzione. E se, cioè, ci si può riempire la bocca quanto si vuole, fra spread più, spread meno, io so che un tessuto che produco io mi costa 3,20, se lo compro in Cina 0,80. E quindi, dice Paolo, qua bisogna pensare se non sia più logico mettere un po' di freno, c'è una concorrenza impropria, questo è un grande tema nel WTO rispetto a che dice il mercato, rispetto invece a cose di questo tipo. E ovviamente chiamando da Prato a tutti è chiaro di che cosa sta parlando Paolo. La seconda domanda, Alessandro, che in questo caso chiama da Monza, e erano tutte e due Monza, questo spero che sia Monza davvero, Alessandro. Buongiorno, mi sente? Sì, la sento, dica. Sì, no, io non volevo fare una domanda economica, ma fidandomi solo della sua competenza, chiamiamola istituzionale. Mercoledì, se i ministri del PDL si sono dimessi, Mercoledì, perché governo Letta chiede la fiducia? Alessandro, questa è la domanda delle mille pistole. Io mi la giro subito al deputato Enrico Zanetti per sentire la sua opinione, che conta più della mia, perché lui è in aula. Prego Enrico. Questo fronte, la fiducia che va a chiedere Letta è comunque una fiducia a un governo ancora in essere, ottenuta la quale ovviamente procederà in quel caso a un rimpasto di governo, che è una soluzione diversa e continuista rispetto a un'ipotesi di incarico bis. Ecco, diciamo, se vogliamo comunque, guardate, rispetto a quelle che sono le vicende che a noi interessano, sono formalismi e chi se ne frega, mi verrebbe da dire. Il punto è per Letta ottenere appunto una maggioranza che gli dia la convinzione di andare avanti, e dopodiché andrà avanti naturalmente con un governo che verrà riassestato nelle figure, nelle persone, nei pesi, in funzione anche di quello che sarà il contributo di ogni gruppo parlamentare. Esatto. a questa fiducia. Io sono d'accordo con quello che dice Enrico e dico che questa volta c'è un passaggio per fare una forza liberal democratica non berlusconiana. Dipenderà dalla testa politica di chi sta in Parlamento vedere se riusciranno a farlo o meno. È molto complicato, perché credo che un governicchio per qualche mese in più non serva, peggio elezioni senza riforma elettorale, senza legge di stabilità, ma c'è la possibilità di fare altro, vedremo cosa la politica ci riserverà. Ma invece all'imprenditore di Prato cosa risponde Enrico? Questa è una delle risposte più difficili in assoluto da dare. Io posso dire a titolo personale che sono sempre rimasto molto perplesso di fronte alla assoluta serenità con cui, più che l'Italia, l'Europa stessa ha sempre ritenuto di poter consentire a soggetti che operano in contesti diversi di concorrere paritariamente su un medesimo mercato. Questo tipo di ragionamenti viene sempre visto come ragionamenti protezionistici e antistorici, però sono dei problemi oggettivi. Nell'istante stesso in cui tu ritieni che determinati prodotti, per poter essere immessi sul tuo mercato, quando vengono appunto prodotti sul tuo territorio nazionale ove hai potestà legislativa, necessitino di tutta una serie di procedure e quant'altro che devono essere rispettate, ma che comportano anche inevitabili oneri, io mi chiedo perché si debba considerare assolutamente normale e naturale che in quello stesso mercato possano essere immessi senza alcun intervento di riequilibrio prodotti che viceversa provengono da aree dove questo tipo di richieste non vengono fatte. Allora Enrico ci richiama al fatto che c'è una responsabilità storica che forse l'Italia ha avuto, doveva controllare di più il rispetto delle leggi vigenti non solo per i prodotti importati ma anche per quelli che venivano realizzati in Italia violando le nostre regole. Secondo me in larga misura è quello che è accaduto a Prato. Io ringrazio Enrico Zanetti, che risentiremo, perché ripeto c'è la fila sui banchi del Parlamento per chiedergli di capire qualcosa, gli altri parlamentari non riescono a capire i testi tecnici sulla parte fiscale, ed è anche per questo che viviamo un paese in cui si inventano cose fantasiose come l'aumento oltre il 100% degli acconti IRES e IRAP. La mia opinione è che quello deve andare alla Corte di Lussemburgo e Strasburgo meritando condanna, ben più di altri casi personali. Comunque avremo occasione di parlarne, appuntamento domani 16:30. Andate sul sito podcast della trasmissione La Versione di Oscar, c'è anche un indirizzo, La Versione di Oscar, radio24.it. Intanto grazie e in un nuovo viaggio con voi, e risponderò anche alle critiche, lo dico per chi dice che dovevo iniziare scusandomi. Tante critiche, tante risposte, ma grazie e viva Radio 24.